Ci eravamo lasciati appunto con la prima stesura di questo libro a vignette e ora per colpa, diciamo così, della seconda ondata siamo di nuovo qua a parlare delle tue vignette, Tabs, e ti volevo proprio chiedere, il racconto è stato, l'hai proseguito in qualche modo, no? Con questa seconda stesura di vignette, come mai? Qual è stata l'esigenza che ti ha spinto di nuovo a tornare a disegnare? Sì, ascoltando un po' gli ACDC, che appunto sono primi in 8 paesi, è anche un bel album, però gli ACDC hanno un grande successo quando i tempi sono cupi, anche con Back in Black è un tempo cupo, ebbero un grandissimo successo con un album, diciamo, di fama maggiore. E il motivo che mi spinge un po' a disegnare, non tanto per inseguire il successo degli ACDC, è perché c'è un po' bisogno di leggerezza. La situazione, lo sappiamo tutti, è drammatica, però il fatto, il mio primo lavoro adesso è il tassista, quindi ho sempre un po' il polso della situazione e mi rendo conto un po' della schizofrenia generale. E questo, diciamo, come modo di esternare tutto quello che come spugna assorbo durante la giornata, disegnare mi fa calmare, come dicevo anche lo scorso giugno, calmare i nervi e un po' la creatività a questo merito di esternare quello che uno, diciamo, assorbe durante la giornata, piuttosto che riversare tutto sul primo che capita, compagno, compagna, cliente, tassista, così, è un modo più leggero, è quello appunto di dare un senso di ironia a una cosa che non ha per niente ironia, non è... No, esatto, però insomma tu in qualche modo esorcizzi questa, sì, situazione, esatto. E allenti anche un attimo, no? La situazione di sicuramente di grande emergenza sanitaria che stiamo vivendo dappertutto e veramente tutti e tutte. In questa seconda edizione, chiamiamola così, del tuo libro a vignette, hai aggiunto qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, di particolare, o sei rimasto sulla stessa scia, ecco, del primo? Ma ci sono meno riferimenti al mondo del tassismo, ci sono più riferimenti all'attualità, alla politica. Dando un'occhiata, ho visto la figura stilizzata di Conte che compare in molte vignette e un po' leggendo le notizie ANSA mi veniva, diciamo, l'ispirazione da quello che mi stava attorno. Ci sono anche qua riferimenti un po' familiari alla mia vita, diciamo, privata, ma rispetto al primo Covid-19 lo fai è più ragionato, un po' più maturo si usa per tutto l'album, cinema, maturo è insieme a 360 gradi, sono le due parole fondamentali, i due aggettivi fondamentali che stanno insieme alla descrizione. Quindi, di tutte queste cose, esatto, no? Dirò, certo, che la seconda ondata è più matura e anche più a 360 gradi, certo, così. Magari anche un po' più consapevole, no? Come anche, sì, tutti quanti noi ci ritroviamo in questo momento un po' più di consapevolezza rispetto a questa emergenza che stiamo vivendo, forse questa cosa. Sì, anche molto più stanchi, appunto questa stanchezza si ripercuote un po' in una psicosi collettiva che per carità il dramma c'è, anche a livello personale ne ho avuto un po' il sentore. Però il fatto di pesare sugli altri, quello è una cosa che insomma non va bene. Certo, assolutamente. Ognuno può trovare i suoi metodi, dalla camminata alla corsa finché si potrà, oppure la creatività, che può anche essere una semplice playlist su Spotify, ma intanto insomma disegnare sicuramente è un buonissimo metodo per esorcizzare il momento. Senti, anche per questo libro i proventi andranno in beneficenza? Sì, è sempre alla Fondazione Policlinico Sant'Orsola, il mio compenso appunto viene dato come primo libro, insomma, ho raccolto 240 euro, non sono i 5.000 euro di Fedez, però sono molto autentici. Assolutamente, molto più autentici, direi. Mi fa piacere che vada questa associazione, collabora con Cotabo, nel senso che facciamo viaggiare il personale sanitario a un euro, e, come accordo comune, e quindi ho visto anche dietro a questa associazione, che potete trovare su internet, insomma, una buona causa, e quindi va tutto a loro. Certo. Il mio compenso, naturalmente. Dove è acquistabile? Questa volta sempre sulle stesse piattaforme, le voglio ricordare. Sì, la piattaforma You Can Print è, diciamo, la piattaforma dove nasce il progetto, però presto sarà anche su tutte le piattaforme, da Amazon a Mondadori, a Feltrinelli, oppure anche fisicamente in libreria è ordinabile, oppure ci sono dei punti che frequento come Modo Info Shop o il negozio di dischi Transformer, dove li porto io e sono amici, e quindi mi fa piacere anche. Bene, quindi insomma ci sono tante opportunità, diciamo, tanti, sì, posti diversi, sia fisici che meno fisici, per arrivare al tuo libro, insomma. Esatto. Senti, ma una vignetta preferita ce l'hai fra tutte queste che hai disegnato? Ci pensavo, forse quella che mi è più cara è quella del Covid, il bacillo stilizzato e un paio di mutande, e il Covid che dice, e pensare che non avevo portato, mi ero portato dietro solo un paio di mutande e quelle di riserva le avevo lasciate a casa. Perché una cosa così lunga e così sfibrante, sinceramente non ce l'aspettavamo. Ah, no, assolutamente. Ma che poi penso che questa scena, secondo me, è successa realmente a un sacco di persone che magari in quei giorni si trovavano, non so, a casa di un parente, di un amico, del ragazzo, della ragazza, con una valigetta piccolina. Io conosco anche persone che si sono ritrovate con quattro paia di mutande per davvero, e poi con quelle sono rimaste perché non ci si poteva più muovere. Bloccati tutto, è una cosa che potrebbe succedere anche a Natale, speriamo di no, ma gira la voce, insomma. Eh sì, gira la voce. Quindi gira, portatevi dietro più paia di mutande. Esatto, questo è il consiglio che diamo oggi da Minerva: portatevi più mutande dietro, che non fanno mai male, ecco, diciamo. Consiglio così saggio, no? Così. Che Minerva avrebbe detto. assolutamente d'accordo con te. Senti, come ultima domanda ti volevo chiedere, c'è una sorta di filo rosso, una linea temporale che seguono le tue vignette in questa seconda edizione, o sono venute così più casualmente, diciamo? Beh, il fatto della cronologia è, diciamo che ogni mattina mi sveglio con una qualche idea, o a sera prima di andare a dormire un po' qualcosa da buttare fuori ce l'ho, quindi il fatto della cronologia temporale è il filo rosso, insomma. Certo, sì. Segue una linea temporale. Sì, infatti la seconda ondata va da quest'estate a praticamente a Natale, anche perché il libro è uscito ieri l'altro, quindi insomma. Certo, quindi proprio parli anche, no, dei fatti che temporalmente sono successi, uno anche un po' uno sguardo. Sì, la chiusura, le zone arancioni, rosse, il grande De Luca che è stato fonte di un paio di vignette. E beh, insomma, se le meritava, poi, la satira, diciamo, prende spunto molto dalla politica, e qua in Italia siamo molto fortunati. Sì, abbiamo terreno fertile, no? Esatto. Come si dice, abbiamo del terreno fertile per fare un po' di ironia, ma insomma l'ironia ci sta sempre, come dicevamo prima, soprattutto in questo momento, anche per esorcizzare un pochino.